Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Quello che sta avvenendo in queste ore nel Mediterraneo è molto più di un naufragio. Siamo in presenza di un grave momento di crisi umanitaria. Eh sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, tocca iniziare così questa settimana parlando appunto di quello che è l'argomento principale che prenderà buona parte qui di Effetto Notte. Vi ricordo tra l'altro che oggi è lunedì, come da qualche lunedì, versione corta di Effetto Notte, quindi chiudo alle 21.45, non alle 22, quindi se volete scrivere i vostri messaggi, ascoltare, partecipare, fatelo intensamente adesso. Vi dicevo, purtroppo questo è l'argomento centrale con questa catastrofe che c'è stata nel Mediterraneo, nel canale di Sicilia ieri. Intanto continuano gli sbarchi, ci sono altri SOS, altre richieste d'aiuto, insomma è davvero una catastrofe, come dice Renzi in questo passaggio, è anche un po' un fallimento, una catastrofe dell'Europa che non è stata in grado in tutto questo tempo ancora possibile, di trovare una soluzione, ma insomma di riuscire a collaborare in un modo più fattivo, più concreto. Ne parleremo con gli ospiti più tardi. Invece a voi ricordo, se volete, l'altro argomento questa sera è la politica con il PD. Sta per succedere una cosa nel PD. Questa sera dovrebbe riunirsi il PD per sostituire 10 deputati che fanno parte della Commissione Affari Costituzionali, perché ritenuti dissidenti rispetto all'Italicum. Allora verranno sostituiti, nel senso che restano nel PD ma non faranno più parte, non avranno più un ruolo nella Commissione Affari Costituzionali. Ritenete che sia una scelta giusta, una decisione giusta, perché vige la disciplina di partito, oppure siete contrari al fatto che vengano epurati? Insomma, si usa questo termine. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, come sempre tutte le sere, 349-238-6666, oppure anche comodamente la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi. Mentre voi fate le vostre riflessioni, io intanto vi riassumo la giornata. L'emergenza immigrazione: dopo le catombe nel canale di Sicilia, la Commissione europea annuncia il raddoppio dei finanziamenti per Triton. Giovedì, vertice straordinario europeo. Italicum, il PD e Ferri Corti con la minoranza, sostituisce i dissidenti, protestano le opposizioni. Whirlpool, i sindacati rompono le trattative con l'azienda e proclamano 12 ore di sciopero. Il ministro convoca un tavolo per il prossimo lunedì. La multinazionale ribadisce la bontà del piano. La Grecia senza soldi, lo Stato chiede di trasferire alla banca centrale le risorse degli enti locali e Draghi insiste, Francia e Italia facciano le riforme. Shock in Spagna, un ragazzino uccide un professore con una balestra. Addio Rabino Toaf, a Roma e a Livorno l'ultimo saluto, il Papa in lutto, lo definisce uomo di pace e dialogo. Le Cirque du Soleil ai cinesi, è stato venduto ai cinesi di Fosun e a un fondo di investimenti. Partiamo quindi ovviamente dall'immane tragedia dell'immigrazione che si è consumata ieri nel canale di Sicilia. Si parla di centinaia di morti, intanto arrivano notizie, vi dicevo, di altri arrivi, di altri naufragi. Per giovedì intanto è stato convocato un vertice europeo straordinario. La speranza di trovarli vivi è svanita quasi subito, quando è stato chiaro che molti di loro erano stati costretti nelle stive. Nessuna possibilità di scampo. Quanti fossero non è ancora chiaro. Tanti, centinaia. Ma sul numero è necessaria cautela, come sottolinea il procuratore di Catania, Giovanni Salvi. I migranti sarebbero stati 950, ma noi riteniamo che questa cifra debba essere presa con estrema cautela, perché sono cifre che vengono da una persona che non ha fatto una verifica. Il procuratore si riferisce alla testimonianza di uno dei 28 superstiti trasferito subito nel capoluogo etneo. E se per il procuratore di Palermo, Scalia, circa 1 milione di persone sono pronte a lasciare la Libia su barconi e carrette, perché pur di non morire a casa loro affrontano anche il mare che non conoscono, non solo dalle coste libiche partono i trafficanti di uomini. Oggi, al largo dell'isola di Rodi, si è inabissata un'altra imbarcazione partita dalla Turchia. Forse 200 a bordo, solo 80 coloro che sono stati tratti in salvo. Ennesima dimostrazione delle falle di Triton, come rileva il procuratore di Catania. Le modalità operative con le quali oggi la Marina Militare si adopera per salvare le vite dei migranti sono certamente meno efficaci rispetto all'operazione Mare Nostrum. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi in Sicilia è stata sgominata una rete di trafficanti di immigrati. una rete internazionale con basi in Sicilia capace di fare soldi a palate grazie al traffico di esseri umani. Una conferma che arriva dal blitz della polizia che nella notte ha portato in carcere 24 persone, tutti stranieri che dalle province di Palermo, Agrigento e Catania gestivano la tratta dei migranti. Gli arrestati, grazie a un decreto di fermo della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sono eritrei, etiopi, ivoriani, guineiani e ghanesi, capaci di garantire ai migranti, soprattutto provenienti dalla Libia, le coperture necessarie per arrivare in Sicilia e da qui transitare verso il nord Italia o il nord Europa. Viaggi massacranti che i migranti pagano cari. Dalle intercettazioni emerge che per un solo viaggio i trafficanti si mettono in tasca 1 milione di euro. Ecco il racconto del capo della squadra mobile di Palermo, Maurizio Calvino. Tutti questi disperati che dai rispettivi paesi, Eritrea e Somalia in primis, raggiungono attraverso viaggi lunghissimi, faticosissimi e pericolosissimi, pagando fior di somme di denaro, attraverso ogni genere di sopruso e servizio, raggiungono le coste libiche, da dove a loro volta sottoporranno un ulteriore sopruso relativo a un esborso di denaro. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Nel frattempo il commissario europeo per l'immigrazione ha presentato al Consiglio dei Ministri interni e esteri un piano d'azione in 10 punti da mettere in atto immediatamente in vista del vertice straordinario convocato per giovedì. Il piano tra l'altro prevede la cattura e la distruzione dei barconi usati dai trafficanti. I have decided to call an extraordinary European Council this Thursday. Mi aspetto che la Commissione europea e il Servizio di Azione Esterna presenteranno opzioni per un'azione immediata e mi aspetto che gli Stati membri contribuiscano immediatamente. La situazione nel Mediterraneo riguarda non solo i paesi del Nord Africa, ma tutta l'Europa. Il Presidente del Consiglio europeo Tusk raccoglie l'invito pressante del Premier Renzi per una convocazione urgente di un summit comunitario ora calendarizzato per giovedì. Nella lettera di invito Tusk delinea 4 assi di intervento, tra i quali spiccano l'aiuto ai paesi del sud Europa, un maggiore sforzo nel salvare vite umane e la lotta ai trafficanti di uomini. La tragedia del weekend ha polverizzato come per incanto divisioni che apparivano insanabili solo venerdì. Fonti europee l'hanno definita una svolta che richiede scelte chiare. Today we have a new European level of awareness. Da oggi abbiamo un nuovo livello di consapevolezza europea sull'immigrazione. C'è un senso d'urgenza per combattere il traffico di esseri umani e salvare le vite, ha dichiarato in serata l'alto rappresentante Mogherini, chiudendo il vertice straordinario dei ministri dell'interno e degli esteri. Il commissario all'immigrazione Avramopoulos ha chiesto una reazione unitaria dell'Europa, annunciando un piano in 10 punti che prevede, tra le altre cose, l'incremento delle risorse per Frontex, con l'estensione dell'area di copertura della missione marittima, la lotta ai trafficanti di uomini attraverso una maggiore integrazione tra Europol, Frontex e l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo. Bruxelles chiede infine il varo di un'operazione militare in mare contro i trafficanti sul modello della missione Atalanta in Somalia. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di immigrazione hanno parlato anche i presidenti del Consiglio d'Italia e Malta che si sono incontrati oggi. Parla di crisi umanitaria il presidente del Consiglio Renzi, commentando quanto sta accadendo in queste ore nel Mediterraneo. È molto più di un naufragio, spiega il Premier, ecco perché è necessario che se ne discuta nel Consiglio europeo, perché è un problema di tutti e non solo dell'Italia o di Malta. Il punto è che il nostro paese non può consentire che si faccia commercio di vite umane come quello che sta avvenendo. E noi li andremo a prendere, li prenderemo. Questo chiediamo alla comunità internazionale. Chiediamo alla comunità internazionale di considerare una priorità il fatto di poter assicurare questi criminali alla giustizia internazionale. 20 anni fa abbiamo chiuso gli occhi davanti a Srebrenica, oggi non possiamo chiudere più gli occhi e ricordarci di certi eventi solo per le commemorazioni di Cerenzi dopo l'incontro con il Premier di Malta. Il Presidente del Consiglio boccia quindi l'ipotesi del blocco navale. In queste condizioni sarebbe un favore agli scafisti, no anche da Renzi ad un intervento militare in Libia. In Libia le condizioni per far la pace con un intervento militare al momento non ci sono. Infine un riferimento alle polemiche politiche: c'è chi è a caccia di voti ma a secco di cuore, dice Renzi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso cambiamo argomento, parliamo di occupazione. La multinazionale americana Whirlpool ribadisce la bontà del proprio piano industriale, ma si dice aperta a rivedere la situazione in presenza di fatti nuovi. I sindacati però abbandonano il tavolo delle trattative. Lunedì ci sarà l'incontro col governo. Carinaro continuerà a lottare perché Carinaro non può permettersi di perdere 850 posti di lavoro. Così un rappresentante sindacale dello stabilimento Whirlpool Indesit di Carinaro in provincia di Caserta, del quale la multinazionale americana ha annunciato la chiusura insieme al centro di ricerche di None nel torinese e allo stabilimento di Albacina nelle Marche. 1350 in tutto gli esuberi per scongiurare i quali oggi a Roma si è tenuto un incontro sindacati azienda. Film, Uilm e UGL hanno però interrotto dopo pochi minuti il tavolo delle trattative, seguiti poi da FIOM che, sebbene disponibile a proseguire il confronto, non ha voluto continuare in assenza delle altre sigle sindacali. Così Alessandro Magnoni, responsabile relazioni industriali Whirlpool. Whirlpool ha ribadito la massima disponibilità ad un confronto aperto. Whirlpool è fortemente convinta della solidità e della validità del piano industriale e questo è giustificato dall'alto livello di investimenti pari a 500 milioni di euro. I sindacati hanno proclamato 12 ore di sciopero per tutto il gruppo Whirlpool entro maggio e una manifestazione nazionale. Il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, preso atto della rottura delle trattative tra aziende e sindacati, ha convocato il tavolo sulla vertenza Whirlpool per lunedì 27 aprile. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la politica con le tensioni sempre più acute nel PD. Non rischiare di cambiare l'Italia, come arginare il rischio di essere battuti, queste le motivazioni alla base della sostituzione dei parlamentari dissidenti democratici in Commissione Affari Costituzionali alla Camera sull'Italicum, per altri più vicini alla linea del segretario premier Matteo Renzi. Tra coloro che saranno sostituiti anche l'ex segretario PD Pierluigi Bersani, Gianni Cuperlo, Rosi Bindi e Alfredo Dattorre, per un totale di 10 deputati. A questo punto la fiducia sull'Italicum è sempre più probabile, così Alfredo Dattorre. Noi abbiamo presentato pochi emendamenti a firma individuale, perché anche qui non è che ci sono emendamenti di corrente. Soprattutto poi c'è la enorme questione del voto di fiducia che ancora non è stato sgombrato dal campo e che segnerebbe uno strappo di dimensioni davvero gravi. Rosi Bindi parla di sostituzione di massa, il Movimento 5 Stelle annuncia che lascerà i lavori in commissione, la battaglia si sposta comunque in aula, 11 gli emendamenti presentati dalla minoranza Dem, in tutto 135, 40 non ammessi, ne rimangono 95, ma Renzi non vuole sentir parlare di modifiche. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ora all'estero, il governo etiope ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale dopo l'uccisione in Libia di almeno 30 cristiani etiopi per mano dell'ISIS. C'è per esempio un ascoltatore che dice perché non parlate piuttosto dei cristiani sgozzati, dice, si pensi agli italiani e si fermi questa invasione. Roberto da Bergamo, perché bisogna sempre comunque contrapporre le miserie, i diritti abusati, non si può parlare contemporaneamente di tutti. E poi tra poco gli altri messaggi, ma restando all'estero, almeno 27 persone sono state uccise oggi a Sanaa, nella capitale dello Yemen, in un raid aereo della coalizione araba a guida saudita che ha bombardato un deposito di armi controllati dai ribelli sciiti. Gli attacchi sauditi sono in corso dal 26 marzo, anche lo Yemen è un teatro di guerra da qualche tempo. E poi questa notizia shock in Spagna, un ragazzino di 13 anni che ha ucciso un professore con una balestra, ha fatto irruzione il ragazzino nella scuola, ha preso di mira anche i compagni. È successo questa mattina in un istituto di Barcellona, 4 studenti sono rimasti feriti in maniera lieve, il 13enne è stato bloccato dagli agenti dopo aver seminato terrore armato anche di un macete. E adesso di nuovo in Italia, oggi c'è stato l'ultimo saluto di Roma, Elio Toaff, ex rabbino capo della capitale dal 1951 al 2001, che è morto ieri pomeriggio. Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 30 aprile ed è stata senza dubbio la figura più importante dell'ebraismo italiano del dopoguerra. Per chiudere, questa notizia che riguarda le Cirque du Soleil, che è stato venduto a un consorzio guidato dalla società di investimenti americana TPG. Il fondo punterà sull'espansione del Cirque du Soleil in Cina, mentre lo storico fondatore Guy Laliberté, un ex mangiatore di fuoco, manterrà una partecipazione di minoranza e continuerà a contribuire alla direzione strategica e artistica della società. Ora, prima di lasciarci momentaneamente per aggiornare chi viaggia, volevo dare uno sguardo ai vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. Giuseppe da Sassari dice: vi faccio una provocazione, perché i barconi non vanno in Israele e perché gli sparano addosso? Giuseppe, più che una provocazione, insomma, mi sembra un pensiero così un po' gratuito. E poi Erminio da Bergamo dice: io in un PD, parlando appunto dell'argomento che vorrei sottoporvi questa sera per i vostri messaggi, in un PD con queste caratteristiche non lo voterò più, cercherò di votare qualcosa che sia più a sinistra del Partito Democratico. A proposito di quello che potrebbe succedere in una riunione questa sera del Partito Democratico, cioè che ci sia un'epurazione dei non allineati che vengono tolti, sostituiti nella Commissione Affari Costituzionali. Voi continuate con le vostre riflessioni, aggiornamenti per chi viaggia. È Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, le notizie tra poco, ve le ricordo. So che qualcuno poi accende la radio non puntualmente alle 21, quindi so, per cercare di aggiornare tutti. Intanto guardo anche i vostri messaggi a proposito della decisione che potrebbe prendere il PD questa sera di sostituire, di rimpiazzare nella Commissione Affari Costituzionali alla Camera 10 deputati del PD che non sarebbero allineati sull'Italicum. Per qualcuno è una questione di disciplina di partito che va rispettata nelle decisioni della maggioranza, e per qualcun altro invece è un problema di democrazia. Sulla pagina Facebook di Effetto Notte Giuseppe dice: certo, ai tempi del fascismo si operavano epurazioni ogni qualvolta necessitava. Roberto: direi di sostituire la scritta Mussolini Dux nell'obelisco del Foro Italico con Renzi Dux. Alberto: io non sono renziano, anche se di sinistra, mai votato destra, alcune cose realizzate da Renzi sono discutibili, però viviamo in democrazia, hanno deciso in anticipo cosa votare e la maggioranza ha deciso in un modo, non capisco perché continuano a rompere le acque, citando Cavilli. Questi i vostri messaggi, adesso direi di recuperare velocemente le notizie più importanti e poi ci soffermiamo sulla questione principale. Un milione pronti a partire. A proposito della catastrofe nel Mediterraneo di ieri, ci sono nuovi allarmi, poi c'è stato un nuovo naufragio davanti a Rodi in Grecia, SOS da altri barconi, ci sono testimonianze dei pochi sopravvissuti alla strage nel canale di Sicilia di ieri che dicono: noi ci siamo aggrappati ai corpi per non morire. E poi Renzi, azione mirata a proposito dell'immigrazione clandestina, azione mirata contro gli scafisti, e l'Unione Europea propone di distruggere i barconi ma non ci sarà un intervento di terra in Libia. E poi ci potrebbe essere un raddoppio dei fondi per Triton o Triton, come volete. Sull'Italicum ai ferri corti, ne abbiamo appena fatto accenno, PD sostituisce i dissidenti, Renzi dice bisogna andare avanti, la minoranza si ribella perché dice questo tradisce il nostro statuto. E poi la Grecia che rastrella contanti per decreto attinge agli enti locali, e intanto Draghi richiama l'Italia e Francia e devono andare avanti con le riforme. Whirlpool: i sindacati rompono il tavolo delle trattative e si annuncia uno sciopero di 12 ore, ma l'azienda continua a difendere il proprio piano industriale. E poi la crisi che colpisce gli over 55, l'INPS pensa a un reddito minimo, così dice il presidente dell'INPS Boeri. E poi questa notizia shock che viene dalla Spagna, con un ragazzino che questa mattina ha ucciso un professore con una balestra a Barcellona. E adesso andiamo appunto sul tema purtroppo principale di oggi, questa ennesima strage nel Mediterraneo, un terribile naufragio nel canale di Sicilia al largo della Libia ieri, in cui sono morte centinaia di persone. I numeri ancora purtroppo non si hanno con precisione, perché ha detto anche il procuratore di Catania Giovanni Salvi potrebbero essere 900, però vanno prese con cautela questi numeri, perché alcuni testimoni dicono che su quel barcone che si è ribaltato ce n'erano 950 di persone, altri dicono che ce n'erano 700. In ogni caso sono solo 28 le persone che si sono salvate e 24 per ora le salme recuperate. I sopravvissuti sono solo uomini. Al momento un unico testimone ha parlato di 200 donne e 50 bambini tra le vittime. E secondo quanto si apprende dai soccorritori, vi dicevo, questi racconti di ulteriore orrore di due soprapestiti che si sono dovuti abbarbicare a delle persone morte in acqua. Come può essere stata la dinamica? Secondo i soccorritori, questo barcone con 900 o 700 persone si è ribaltato nel momento in cui hanno visto arrivare una nave mercantile portoghese, si sono tutte spostate su un lato e adesso ricomincia di nuovo il rincorrersi di reciproche accuse, di richieste d'aiuto da parte dell'Italia nei confronti dell'Europa. L'Europa che dice raddoppieremo i fondi per la missione Triton, e ci sono molti appelli dal nostro ministro degli esteri Gentiloni, da Renzi stesso. Insomma, ne parliamo col professor Edoardo Greppi, che saluto. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Docente di diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani all'Università di Torino e anche consigliere scientifico dell'ISPI. E Flavio Di Giacomo. Buonasera, Di Giacomo. Buonasera. Portavoce dell'OIM, che è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Flavio Di Giacomo, lei che è molto attivo con la vostra organizzazione umanitaria, per ora si hanno dei dati un po' più certi su quello che sta avvenendo a proposito della catastrofe di ieri, ma so che continuano gli arrivi, continuano gli SOS, la situazione è sempre più fuori controllo. Sì, proprio in questo momento sono in corso di svolgimento delle operazioni di soccorso in alto mare, 6 operazioni con varie centinaia di migranti che sono stati soccorsi. Sappiamo già di uno sbarco di circa 100 persone a Lampedusa questa notte. E adesso noi qui ci troviamo a Porto di Catania in attesa della nave della Guardia Costiera, la Gregoretti, che porterà i sopravvissuti del naufragio di ieri. Sentiamo, cominciamo a sentire qualche passaggio della conferenza di Renzi. Quello che sta avvenendo in queste ore nel Mediterraneo è molto più di un naufragio. Siamo in presenza di un grave momento di crisi umanitaria che come tale va affrontato e gestito sulla base del diritto umanitario, del diritto internazionale umanitario, che richiede quindi una risposta solida da parte di tutta la comunità internazionale. E poi sempre Renzi spiega che effettivamente il controllo del mare, seppure l'Italia abbia fatto molto finora, è molto complesso. Il tema del controllo del mare è molto complicato, non si può pensare di salvare semplicemente rincorrendo o giocando a nascondino con gli scafisti schiavisti in mare. E c'è anche il procuratore Salvi, procuratore di Catania, che fra le varie cose che ha detto anche insomma ha un po' criticato il cambio tra Mare Nostrum e Triton. Sapete, Triton ha sostituito quella che era l'operazione di controllo umanitaria italiana. Sentiamo cosa dice. È chiaro che Mare Nostrum non era la bacchetta magica e certamente non abbiamo alcun elemento per dire che non si sarebbe verificato questo naufragio. È certo però che dal punto di vista del nostro interesse, che è molto limitato, quello all'accertamento dei reati, che è una goccia nel mare di questa vicenda, Mare Nostrum ci consentiva interventi molto più rapidi e che dal punto di vista del soccorso l'anticipazione dello schieramento consentiva interventi più efficaci. Flavio Di Giacomo è d'accordo su questa osservazione del procuratore di Catania? Beh, con Mare Nostrum la situazione chiaramente prevedeva l'impiego di più mezzi, di mezzi che potevano pattugliare più a lungo le acque senza tornare a terraferma e mezzi che potevano anche soccorrere nel giro di qualche giorno più barconi, parecchi barconi, senza dover tornare appunto al porto, cosa che sta succedendo adesso, per cui la Guardia Costiera che sta facendo veramente un lavoro eccezionale, eroico, però sta facendo le corse contro il tempo per salvare tutti, veramente. Ora si fanno varie ipotesi, a parte questo che è stato convocato un vertice straordinario europeo per giovedì, e sembra sempre che ci debba essere ogni volta la strage per sollecitare anche gli altri paesi europei, comunque l'intervento dell'Unione Europea. Ma professor Greppi, le faccio sentire la proposta del segretario della Lega Salvini e poi che cosa, come commenta questa possibile ipotesi Renzi. Cosa è cambiato dalla strage di Lampedusa? Da questi niente, occorrono altri 700 morti per bloccare le partenze. Se le autorità internazionali, penso all'ONU, penso alla NATO, penso alla disastrosa Unione Europea, hanno un senso, ci vuole tanto a organizzare un blocco navale internazionale di fronte alle coste libiche per evitare partenze e identificare là chi scappa veramente dalle guerre, chi invece è immigrato clandestino? Tecnicamente il blocco navale si fa nelle acque internazionali. Se venisse, a meno che uno non sappia di che cosa sta parlando, ma se ragioniamo dal punto di vista giuridico internazionale, quel blocco internazionale avrebbe come effetto di fare un gigantesco regalo agli scafisti schiavisti, perché metterebbero la barca in mare, la lascerebbero andare. Nel momento in cui il blocco navale si fa nelle acque internazionali, coloro i quali fanno il blocco navale sarebbero costretti a prendere i migranti, sarebbe una sorta di corridoio gestito dagli scafisti schiavisti. Professor Greppi, con chi è d'accordo con l'ipotesi di Salvini di questo blocco navale o con Renzi, e ci spiega anche esattamente in cosa consisterebbe, se è previsto dalla giurisdizione internazionale? Sì, ma direi che tra una sciocchezza e una cosa sensata sto ovviamente dalla parte della cosa sensata, cioè mi sembra che la valutazione pacata del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri siano assai più affidabili che non delle affermazioni, che sono parole in libertà. Il blocco navale è notoriamente secondo il vecchio diritto internazionale di guerra, che oggi si chiama diritto dei conflitti armati, è un atto di guerra. È un atto di guerra in un contesto che della comunità internazionale contemporanea, che dal 1945 con la Carta dell'ONU ha visto gli Stati impegnarsi a non ricorrere unilateralmente alla forza nelle relazioni internazionali contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato, se non, quindi come diciamo come divieto generale, che conosce soltanto due eccezioni. Uno è la legittima difesa, il caso di legittima difesa a fronte di un attacco armato che uno Stato abbia subito, e questo ovviamente non è il caso, oppure un'azione di uso della forza a titolo di misura di sicurezza collettiva decisa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Allora, tra le misure che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite potrebbe teoricamente adottare c'è anche quella di un blocco navale. Diciamo che qui però ci si scontra con una serie di problemi che sono da una parte, diciamo, squisitamente di diritto, e cioè gli stati sovrani comportano che, cioè la sovranità degli stati comporta che gli altri stati si astengano da qualunque forma di intervento. Adesso potremmo discutere a lungo se la Libia sia uno stato sovrano, però formalmente non solo ha un governo, almeno sulla carta, ma addirittura ne ha almeno un paio. Adesso si tratta evidentemente di decidere con quale dialogare. La comunità internazionale nella sua generalità sembra averne scelto uno dei due, però questa autorità, per quanto blanda, per quanto inadeguata a un controllo efficace del territorio, a un governo della popolazione, a un controllo dei confini, eccetera, c'è, e in teoria bisognerebbe chiedere l'autorizzazione a questa entità, o almeno intrattenere un negoziato diplomatico per arrivare a una scelta praticabile. Diversamente, un uso unilaterale della forza dell'Italia, tra l'altro sotto il profilo più politico che giuridico, rappresenterebbe una serie non indifferente di problemi, tenuto conto che l'Italia è stato il paese che ha colonizzato la Libia, quindi sarebbe un segnale rispetto ai paesi della regione che probabilmente questi non digerirebbero volentieri. Però questo è un problema più politico che giuridico. Dal punto di vista giuridico, una misura di questo genere, quindi in teoria, che è una misura comunque implicante l'uso della forza, dovrebbe essere decisa al Consiglio di Sicurezza. Il Consiglio di Sicurezza non si è finora mostrato incline ad assumere una decisione. Decisioni unilaterali sono comunque sempre rischiose, perché sono comunque a loro volta una forma di violazione del diritto internazionale. Il Presidente del Consiglio mi è parso, da quello che ho sentito da queste notizie, essere anche abbastanza preoccupato rispetto alla praticabilità di certe azioni, cioè qualcuno che appunto sembra avere facilità di parola, ma forse non con la stessa facilità elabora concetti, dovrebbe spiegare come si controlla una frontiera, una costa che mi pare sulla Libia sia intorno sia superiore a 1500 chilometri o qualcosa di questo genere. Cioè, un pattugliamento efficace di una porzione di mare e di costa di quelle dimensioni, insomma, vorrebbero alcune migliaia di unità probabilmente, non basterebbero semplicemente alcune centinaia, e quindi sotto questo profilo anche la praticabilità. Dopodiché, che cosa facciamo? Facciamo un blocco navale, un blocco armato, armi spianate, eccetera eccetera, parte un barcone, che cosa facciamo? Lo affondiamo? So che una certa parte politica sarebbe, ed è stato dichiarato in passato, ma come professore di diritto internazionale umanitario e di tutela dei diritti umani ovviamente mi dissocio dall'ipotesi che si spari su un barcone con vecchi, donne e bambini. Insomma, questo professore, l'argomento è complessissimo. Sentiamo anche un passaggio della conferenza del ministro degli esteri Gentiloni. Chiediamo all'Unione Europea e alla comunità internazionale un chiaro sostegno politico per un impegno di contrasto ai trafficanti di esseri umani. Quelli che ieri Renzi ha definito il nuovo schiavismo del XXI secolo. Flavio Di Giacomo, ha sentito Gentiloni che torna a chiedere ancora l'intervento dell'Unione Europea, che altro possiamo fare? C'è tra l'altro la proposta, dicevo prima, del Commissario Europeo per l'Immigrazione, di, fra le varie cose, ha presentato 10 punti d'azione, poi vedranno meglio, insomma, di definirli giovedì nel vertice straordinario, ma dice fra le possibilità anche cattura e distruzione dei barconi. Lei che idea si è fatto di che cosa davvero potrebbe essere efficace? Ma guardi, innanzitutto vorrei commentare questa idea del blocco delle partenze di cui ho sentito parlare prima, perché chiaramente è un'ipotesi completamente assurda, perché bloccare le partenze vorrebbe dire lasciare comunque le persone, o rimandare le persone in Libia, in un posto in cui in questo momento avvengono chiaramente enormi violazioni dei diritti umani, dai racconti che ci vengono fatti dai migranti, quindi persone picchiate, persone uccise, persone torturate. Donne violentate e non soltanto dei trafficanti, è proprio una situazione generalizzata, quella dei subsahariani soprattutto, che diventano target di violenze, di abusi già da quando cominciano a entrare in Libia. Quindi è chiaramente un'opzione non praticabile quella di bloccare le partenze, perché sono persone che non hanno altra scelta se non di partire se vogliono vedere salva la propria vita. Quindi questo tanto per chiarire quello che è stato detto sul blocco delle partenze, l'ipotesi proprio non praticabile. Purtroppo esiste soltanto questo tipo di partenza, questo è il problema, ossia affidarsi agli scafisti, a questi trafficanti, e il problema è tutto nella Libia, perché la Libia ormai è un paese da questo punto di vista perso, evidentemente. Quindi nel momento in cui un migrante arriva in Libia, diciamo che non può essere aiutato in nessun modo, vista la situazione del paese, e quindi è costretto a prendere i barconi per arrivare. Bisognerebbe aiutarli, quello sì, prima, come abbiamo già detto varie volte, con entrate, magari entrate, canali di entrata legali in Italia e altre tipologie di intervento che possono essere anche rafforzamento di riunificazione, family reunification, quindi ricongiungimenti familiari, resettlement in Europa, insomma ci possono essere tutta una serie di possibili misure che possono essere fatte nei paesi di transito, in collaborazione con i paesi di transito. Ma sono cose molto complicate che hanno bisogno di grande pianificazione, naturalmente pianificazione. Ci sono tanti problemi poi sul campo che chiaramente vanno affrontati, perché detta così sembra facile, ma poi chiaro. Se si va in Sudan a fare un centro per migranti, sono tutta una serie di problemi logistici, di sicurezza, immaginiamo. Che bisogna affrontare. Flavio Di Giacomo, quindi, allora noi aspettiamo, vediamo giovedì se viene fuori qualcosa di nuovo, di buono da questo vertice straordinario europeo, poi avremo modo purtroppo di continuare a parlare. Intanto grazie al professor Edoardo Greppi, grazie Flavio Di Giacomo, e adesso un minuto di ricreazione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi nella versione corta del lunedì, alle 21.45 ci lasciamo, poi ci ritroviamo tutte le sere invece sino alle 22. Tra poco vi ricordo le notizie più importanti, ma abbiamo appena parlato lungamente dell'ulteriore emergenza immigrazione. Beh, certamente ha detto giustamente Renzi che si è andati a bombardare la Libia senza pensare però al dopo, a quali sarebbero state le conseguenze, al di là del fatto che fosse giusto o sbagliato, e questa poca lungimiranza in genere in questi fatti, a partire dall'Iraq ma anche molto prima. Adesso vi riassumo le notizie più importanti e poi andiamo su una di queste. L'emergenza immigrazione, abbiamo parlato dopo le catombe nel canale di Sicilia, la Commissione europea annuncia il raddoppio dei finanziamenti per Triton. Giovedì vertice straordinario europeo, i tagli come il PDF a ricorti con la minoranza, sostituisce i dissidenti, protestano le opposizioni, ne parleremo tra pochissimo. E poi Whirlpool, i sindacati rompono le trattative con l'azienda e proclamano 12 ore di sciopero. Shock in Spagna con un ragazzino che uccide un professore con una balestra, addio oggi al rabbino Toaf a Roma e a Livorno. E poi le Cirque du Soleil che va ai cinesi e Fiorentina Verona nel posticipo di Serie A, per il momento sempre 0-0. Parliamo adesso di politica, dell'Italicum. Sull'Italicum si consuma l'ultimo scontro per ora all'interno del PD tra maggioranza e minoranza. La nuova legge elettorale inizia il suo iter conclusivo alla Camera, sono stati presentati 135 emendamenti che cominceranno a essere valutati da domani, 11 arrivano dalla minoranza democratica. Questa sera ci dovrebbe essere la decisione sul rimpiazzo, dei deputati non allineati che fanno parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera, ma che saranno sostituiti, dovrebbe essere una decina, perché creano troppi problemi sull'Italicum. Il primo a rivelarlo sarebbe stato il bersaniano Andrea Giorgis, che è in collegamento. Buonasera onorevole. Buonasera. È già iniziata questa riunione? Sono state prese decisioni già o cosa? Dell'andamento della riunione in tempo reale non le so dire, ma la decisione è sostanzialmente già stata presa. Nel momento in cui parte di noi ha detto che non sarebbe stato disponibile a votare il mandato al relatore e a votare i singoli articoli che compongono la legge elettorale, l'ufficio di presidenza si è trovato di fatto costretto a procedere alla sostituzione. Secondo lei Giorgis fa parte del leader delle procedure democratiche, degli statuti dei partiti, questo o cosa le sembra questa decisione? Cioè, guardi, noi intanto bisogna avere ben chiaro qual è l'oggetto del contendere e di che cosa stiamo parlando. Noi qui stiamo discutendo non di un qualsiasi disegno di legge, stiamo discutendo della legge che struttura la rappresentanza democratica e insieme alla riforma costituzionale ridisegna l'intero impianto della nostra democrazia rappresentativa. E di conseguenza su una materia così delicata occorre che ci sia parte parlamentare di discussione e noi ci siamo. Giorgi, se la sento molto male, forse deve spostarsi e stare fermissimo, il più fermo possibile. Eccomi. Ecco, così, eccomi. Perfetto. Dicevo che noi ci siamo trovati di fronte a un testo che presenta significativi difetti, significative irragionevolezze, che peraltro quasi tutti gli esperti che abbiamo udito hanno sottolineato e che però non è possibile correggere perché, non perché nel merito non siano condivisibili le nostre preoccupazioni, ma perché si teme che al Senato non possa più essere approvato, il che naturalmente non è un argomento di merito e poi è un argomento del tutto infondato. Quindi in una materia così delicata, così importante, è difficile immaginare che non si cerchi di fare al meglio. Cioè, stiamo parlando, ripeto, non di una qualsiasi legge, ma stiamo parlando della legge che struttura il nostro ordinamento democratico. Giorgis, il Movimento 5 Stelle ha minacciato di lasciare anche loro, insomma, la Commissione Affari Costituzionali se voi verrete epurati. Mi dica in questo minuto che rimane che farete se questo succederà? Adesso il Movimento 5 Stelle cerca di naturalmente insinuarsi in quello che è un confronto che è all'interno del PD. Qui non si tratta di epurazione, qui si tratta di parlamentari che hanno chiesto che ci sia la possibilità di un confronto di merito e di un miglioramento e di una correzione. A fronte della indisponibilità dei parlamentari che fanno parte della Commissione Affari Costituzionali di votare il testo così come è stato approvato dal Senato, ci è data la sostituzione. Qui adesso non si tratta di epurazione, qui si tratta di trovare il modo di migliorare questa legge. Evitiamo di non è quello il tema. No, se corregge lei il termine, ancora meglio. Vedremo come finisce allora per stasera e nei prossimi giorni. Grazie Giorgis, buon lavoro. Noi a tra poco.